Credo che li abbia fatti diventare più sodi lui a forza di succhiarli in quel modo per tanto tempo che mi faceva venir sete. Lui le chiama tettine. Non potei fare a meno di ridere, sì, questo. Comunque la punta si rizza. Per così poco non gli farò perdere l'abitudine. E prenderò quelle uova sbattute col marsala per ingrassarli per lui. Cosa sono tutte quelle vene? E quelle altre cose? Buffo il modo come è fatto. Due uguali in caso di gemelli. Dice che sono l'emblema della bellezza, messi lassù in cima come quelle statue al museo. Una di loro fa finta di nasconderseli con la mano. Sono così belli, certo, in confronto di come appare un uomo con quei due sacchetti pieni e quell'altro affare che penzola giù. O ti si rizza sotto il naso come un piolo da attaccapanni. Non mi meraviglio che se lo coprano con una foglia di cavolo. Quel disgustoso Cameron Highlander dietro il mercato della carne. O quell'altro disgraziato con la testa rossa dietro l'albero dove stava la statua del pesce. Quando passavo faceva finta di pisciare tirandolo fuori perché lo vedessi con quella gonnellina da bambino tirata su da una parte. Il reggimento della regina erano delle buone lane. Meno male che il Sarre gli ha dato il cambio. Cercano sempre di fartelo vedere. Quasi ogni volta che passavo vicino all'orinatoio, vicino alla stazione di Arco Street, solo per provare, o l'uno o l'altro cercava di attirare la mia attenzione. Come se fosse una delle sette meraviglie del mondo. Oh, che puzzo quei luridi locali. La sera che tornavo a casa con Poldi, dopo essere stati dai Comerford, arance, limonate, roba da sentirsi pieni d'acqua, sono entrata in uno di quelli. Faceva un freddo birbone che non mi tenevo più. Quando è stato? Sì, nel 93. Che il canale gelò, sì, fu qualche mese dopo. Peccato che non c'erano un paio di Cameron a vedermi accoccolata nel posto degli uomini. Me adero. Avevo cercato una volta di farmi un disegno prima di strapparlo. Era una specie di salsiccia. Vorrei sapere se non han paura, andando in giro, di buscarsi un calcio o un lattone in quel posto lì. La donna e la bellezza è riconosciuto da tutti. Quando disse che potevo posare nuda per un quadro per qualche riccone di Holles Street. Quando perse il posto da Haley e io vendevo i vestiti e strimpellavo il piano alla casa del caffè. Farei la figura di quella ninfa al bagno, coi capelli tutti giù. Sì, solo che lei è più giovane e io assomiglio un po' a quella sporca puttana di quella sua fotografia spagnola. Le ninfe avevano forse l'abitudine di passeggiare. Così gli chiesi di lei e quella parola metti non mi ricordo cosa dentro e lui giù a snocciolar paroloni sull'incarnazione. Non ce la fa spiegar qualcosa semplicemente in modo che una poveretta capisca. Poi vai, ti brucia il fondo della padella, tutto per quel suo rognone. Non tanto questo. C'è ancora il segno dei suoi denti dove ha cercato di mordere il capezzolo. Mi tocca urlare, sono atroci, cercano di farti male. Avevo il petto gonfio di latte al tempo di Milly, abbastanza per due. Che ragione c'era poi? Diceva che avrei potuto buscarmi una sterlina alla settimana come balia. Tutti gonfi la mattina. Quello studente, tanto delicato, che abitava al 28 dai Citron Perros, per poco non mi vedeva dalla finestra mentre mi lavavo, solo che io mi tirai l'asciugamano sul viso. Era in quel modo che faceva lo studente. Mi facevano male quando la svezzai, finché non mi fece fare dal dottor Brady quella ricetta alla bella donna. Mi toccò di fargli ricciucciare. Erano così duri, diceva che era più dolce più spesso delle vacche. Poi voleva mungermi nel bacino del tè. Beh, non si sa cosa gli può venire in mente. Giuro che dovrebbero metterlo sui giornali. Vorrei solo ricordarmene una metà di quelle cose e farne un libro. Le opere di Mastro Polly, sì. E la pelle è tanto più liscia. Un'ora intera ci lavoro sopra, di sicuro. È come una specie di grosso bambino che mi succhiava. Vogliono tutto in bocca, tutto il piacere che possono cavare da una donna. Sento ancora la sua bocca. Oh, oddio mio, bisogna che mi stiri un po'. Vorrei che fosse qui lui o qualcun altro per lasciarmi un po' andare, per godere ancora in quel modo. Mi sento tutta fuoco dentro. O se potessi sognarlo. Quando mi ha fatto godere la seconda volta facendomi il pizzicorino di dietro con un dito. Me la godetti per circa 5 minuti con le gambe attorno a lui. Dopo l'ho dovuto tenere stretto. Oh, Dio mio! Dopo avrei voluto urlare tutte le parolacce possibili e immaginabili. Fottere, o merda, chissà solo non apparir brutta, o con le rughe per lo sforzo, chissà come la prenderebbe. Bisogna testare il terreno con gli uomini. Non sono tutti come lui, grazie a Dio, alcuni di loro vogliono che si faccia tutto con belle maniere. Ho notato il contrasto, lui lavora e tiene la bocca chiusa. M'ero data quell'espressione agli occhi, coi capelli un po' sciolti per il tramestio e la lingua tra le labbra, gli porgevo a quel brutalone. Giovedì, venerdì 1, sabato 2, domenica 3. Oddio mio, non ce la fa ad aspettare fino a lunedì. Frisi, frang, treno che fischia da qualche parte. Che forza, hanno dentro quelle macchine come grossi giganti e l'acqua che bolle dappertutto e esce da tutte le parti. Come la fine d'amor, la vecchia dolce canzone. Quei poveracci che devono star fuori tutta notte, lontani dalle mogli e dalle famiglie, ad arrostire su quelle macchine. Si soffocava oggi, contenta di aver bruciato la metà di quei vecchi frima e foto bits, lasciarmi tutta quella roba in giro. Sta diventando trascuratissimo. E il resto l'ho messo nel WC. Me li farò tagliare da lui domani, invece di serbarli fino all'anno prossimo per cavarne qualche peso e sentirmi domandare dov'è il giornale del gennaio scorso e tutti quei vecchi soprabiti che ho tolto dall'anticamera che ti facevano anche più afa. La pioggia era deliziosa e rinfrescante, proprio alla fine del mio primo sonno. Credevo che avrebbe fatto come a Gibilterra. Dio buono che caldo là, prima che arrivi il vento di Levante nero come la notte. E il bagliore della rocca, che si vedeva troneggiare attraverso come un grosso gigante, a paragone della loro montagna delle tre rocce, credono che sia tanto grande, con le sentinelle rosse qua e là, i pioppi, è tutto arroventato, e l'odore dell'acqua piovana in quelle cisterne, a guardare il sole che tutto il tempo ti strapiomba addosso sbiadito. Quel bel vestitino che l'amica di papà, Miss Stenop, mi mandò dal Bimarsh Parigi. Che peccato, mia piccola cagnolina, scriveva, era molto gentile. Qual era quell'altro nome che aveva? Solo una CP per dirti che ho mandato il regalino. Ho fatto un bel bagno caldo e mi sento come un cagnolino bello pulito ora. M'ha fatto piacere. Cocco, lo chiamava. Cocco darebbe qualsiasi cosa per tornare a Gib e sentirti cantare l'attesa nella vecchia Madrid. Concone, così si chiamano gli esercizi che mi ha comprato. Uno di quei nuovi scialli, una parola indecifrabile. Sono dei buffi arnesi, si strappano solo a guardarli, però sono carini, non è vero? Non mi scorderò mai di quei deliziosità che si prendevano insieme, fantastici scones con l'uvetta e cialli al lampone che io adoro. E ora, mia cara cagnolina, non mancare di scriver presto, distinti, non ce lo mise saluti, a tuo padre e anche al capitano Grove, affettuosamente tua affezionatissima Esther, XXXXX, non aveva l'aria di una donna sposata, proprio una bambina. Lui era molto più vecchio di lei, il suo cocco. Mi voleva un bene dell'anima, quel giorno che tenne giù il filo col piede perché potessi passare alla corrida di La Linea, quando dettero l'orecchia del toro a quel matador Gomez. Questi vestiti che ci tocca di portare, ma chi li avrà inventati? Si aspettano che tu possa andare su per la salita di Killiney, come per esempio a quel picnic legata stretta come un salame in quel busto. Non si riesce di alzare un dito in mezzo alla calca, correre o saltare da parte. È per questo che avevo paura, quando quell'altro vecchio toro feroce cominciò a caricare i banderilleros con quelle loro cinture e quei due cosi sul cappello. E quei bruti di uomini a urlare bravo toro. Certo le donne non erano da meno, con quelle belle mantiglias bianche. Spuzzavano e sbudellavano quei poveri cavalli. Mai visto niente di simile in vita mia. Sì, si sganasciava da ridere quando imitavo il cane che abbaia in Bell Lane. Povera bestia, anche malata. Cos'è poi successo di loro? Io dico che sono già morti da un pezzo tutti e due. Come attraverso una nebbia ci si sente tanto vecchi. Io facevo gli scons, si capisce, ottenevo tutto quel che mi passava per la testa. Poi quella ragazza, Esther, stavamo sempre a confrontare i nostri capelli. I miei erano più folti dei suoi. Lei mi faceva vedere come tenerli dietro quando cominciai a tirarmeli su. E che altro? Come si faceva il nodo a un filo con una mano sola? Eravamo come cugine. Che età avevo io? Poi quella notte del temporale dormii nel suo letto. Lei teneva le braccia attorno a me. Poi la mattina si fece alla lotta a guancialate. Che divertimento! Lui mi metteva gli occhi addosso tutte le volte che se ne presentava l'occasione. Quando c'era la banda sull'esplanada Alameda, quando ero con papà e il capitano Grove, Prima alzai gli occhi verso la chiesa e poi alle finestre e poi li riabbassai e i nostri occhi si incontrarono. Mi parve che mi pungessero 100.000 spilli, mi ballava la vista. Mi ricordo di dopo che mi guardai allo specchio e mi riconoscevo appena. Che cambiamento! Era attraente per una ragazza, nonostante fosse calvo, aria intelligente, deluso e allegro al tempo stesso. Era come Thomas nell'ombra di Ashley Diat. Aveva una pelle meravigliosa per il sole, l'eccitazione, come una rosa. Non mi riuscì di chiudere occhio. Non sarebbe stato carino per via di lei, ma avrei potuto troncare in tempo. Mi dette da leggere La pietra lunare. Era il primo che leggevo di Wilkie Collins e lessi East Lynne e L'ombra di Ashley Diat, Mrs. Harry Wood, Harry Dunbar, di quell'altra donna che gli prestai dopo con dentro la foto di Mulvey perché vedesse che non ero senza, e Lord Lytton, Eugene Aram, e lei mi dette Molly Bound di Mrs. Hungerford. Per il nome, non mi piacciono i libri dove c'è una Molly, come quello che mi ha portato lui su quella delle Fiandre. Una puttana che stava sempre a rubare nei negozi quel che poteva, stoffe e roba a metri e metri. Oh, questa coperta mi pesa troppo. Così va meglio. Non ho neppure una camicia da notte. Possibile, questo affare mi si arrotola tutto sotto e poi c'è lui con le sue sciocchezze. Così va meglio. A quel tempo nuotavo in un bagno di vapore. La camicia bagnata per il sudore mi si attaccava tra le chiappe sulla seggiola quando mi alzavo. Erano così grosse e sode quando mi rizzavo sui cuscini del sofà per guardare con le sottane alzate e le cimici a tonnellate la notte e le zanzariere. Non riuscivo a leggere una riga. Dio, sembra siano passati dei secoli, un'eternità. Poi non sono più tornati. E lei non mise l'indirizzo giusto, forse si era accorta che il suo cocco. La gente se ne andava sempre, e noi mai. Mi ricordo quel giorno con le onde, i bastimenti con le loro ciminiere che si dondolavano, e l'odore della nave, quelle uniformi di ufficiali a terra in permesso. Mi fece venire il mal di mare. Lui non diceva niente, era tutto serio. Avevo quegli stivaletti alti, abbottonati, e la sottana che si gonfiava al vento. Lei mi baciò 6 o 7 volte. Forse piansi, sì. Credo di sì, o poco ci mancò. Mi tremavano le labbra quando dissi addio. Aveva una smagliante cappa d'un azzurro particolare per il viaggio, tagliata di sbieco, in un modo molto originale, ed era graziosissima. Diventò una noia mortale dopo che se ne andarono. Stavo quasi progettando d'andarmene come una pazza da qualche parte. Non si sta mai bene dove siamo. Padre o zio, matrimonio. Aspettare sempre, aspettare che venga. Da. Me, aspettare i suoi pie veloci, quei loro maledettissimi cannoni sempre a tuonare, sparacchiare da far ballare tutta la bottega, specie il compleanno della regina, e buttavano tutto giù in tutte le direzioni se non si aprivano le finestre. Quando il generale Ulysses Grant, chiunque fosse, che cosa ha fatto, dice fosse un grand'uomo, sbarcò qui e il vecchio Sprague, il console, che era qui da prima del diluvio, si rivestì tutto, poveraccio, ed era in lutto per il figlio. Poi con le solite trombe della sveglia al mattino e il rullo dei tamburi e quei poveri diavoli di soldati che andavano in giro con le gavette, appestavano tutto, peggio di quei vecchi barboni di ebrei coi loro caffetani, e l'adunata dei leviti, e il cessate il fuoco, e il colpo di cannone come segnale di passare le linee, e il maresciallo che gira con le chiavi a passo di marcia a chiudere i cancelli, e le cornamuse, e solo il capitano Groves e papà che parlavano di Rorke Strift, e di Plevne, e di Sir Garnet Wolseley, e di Gordon a Khartoum, e io gli accendevo le pipe ogni volta che si spegnevano. Vecchio ubriacone maledetto, col grog sul davanzale della finestra. Non c'era caso che ne lasciasse un po'. Si frugava nel naso. Cercava qualche altra storiella sporca da raccontare a quattro occhi. Ma non si lasciava mai andare quando c'ero io. Mi mandava via dalla stanza con qualche magra scusa, facendomi dei complimenti. Era il Bechamel's whisky che parlava, si capisce. Ma avrebbe fatto lo stesso con la prima arrivata. Credo sia morto d'ubriachezza galoppante. Un secolo fa. I giorni erano come anni, non una lettera d'anima viva, se non quelle poche che indirizzai a me stessa con dei pezzetti di carta dentro. Così annoiata che avrei graffiato volentieri qualcuno a sentir quel vecchio arabo con un occhio solo, con quello strumento a raglio che cantava il suo ia, ia, ia. Tutti i miei complimenti per quel putiferio del suo raglio, male come ora. sempre con quelle mani in mano a guardar fuori della finestra. Ci fosse qualche bel ragazzo almeno nella casa di fronte. Quello studente di medicina di Holles Street che gli stava dietro l'infermiera, quando mi misi i guanti e il cappello alla finestra per far vedere che uscivo, non avevo un'idea di quel che volevo dire. Ma son duri, non capisco mai quel che si dice. Anche a stamparlo su un cartellone, neanche se gli stringi due volte la mano con la sinistra. Non mi riconobbe neanche quando gli feci gli occhiacci fuori della cappella di Whitland Row. Dov'è questo gran cervello che hanno? Mi piacerebbe vedere la materia grigia, ce l'hanno i coglioni, datteret a me. Quei tangheri del City Arms avevano meno intelligenza dei buoi e delle vacche che vendevano per carne. E la campana del carbonaio, quel bugerone rumoroso che cercava di fregarmi con la fattura d'un altro che aveva tirato fuori del cappello. Che paio di zampe! E chi ha pentole, padelle, bricchi da aggiustare? Niente bottiglie vecchie per un pover'omo oggi. E mai visite né posta se non i suoi assegni o qualche reclama, come quel toccasan che gli mandarono con l'indirizzo. Cara signora, solo la sua lettera e la cartolina di Milly stamani. Guarda, a lui è scritto una lettera. Di chi era l'ultima lettera che ho ricevuto? Oh, di Mrs. Doohan. Ma cosa le ha preso di scrivere dal Canada, dopo tanti anni, per quella mia ricetta del pisto madrileno? Floyd Dillon, da quando ha scritto per dire che aveva sposato un architetto ricchissimo, se si deve credere a quel che si dice, con una villa e 8 stanze? Suo padre è una persona così per bene. Era vicino ai 70, sempre di buon umore. Beh, ora... Miss Tweedy o Miss Gillespie, ecco il piano. Era un servizio da caffè d'argento massiccio, quello che aveva sulla credenza di Mogano. E poi è morto così lontano. Non posso soffrire la gente che ha sempre disgrazie da raccontare. Ognuno ha i suoi di guai. Quella povera Nancy Blake è morta 1 mese fa di polmonite acuta. Beh, non la conoscevo più di tanto. Era amica di Floyd più che mia. Che seccatura dover rispondere. Lui mi dice sempre cose a sproposito e senza punteggiatura, come facesse un discorso. La sua dolorosa perdita, condolanze. Faccio sempre questo errore. E nipote con 2 P. E spero che lui mi scriverà una lettera più lunga la prossima volta, se è vero che gli piaccio. Ah, oh, grazie siano resi a Dio, che ho pescato qualcuno che mi dà quello di cui avevo maledettamente bisogno per rimettermi dentro un po' di cuore. Non ci sono occasioni in questo posto come ce n'erano laggiù. Se qualcuno mi scrivesse una lettera d'amore, la sua non era un granché. E io gli avevo detto che poteva scrivermi quel che voleva. Tuo per sempre, Hugh Boylan nella vecchia Madrid. Le stupide credono che l'amore sia tutto un sospiro e un morir. Eppure se scrivesse ci dovrebbe essere qualcosa di vero. Vero o no, ti riempie tutta la giornata. E la vita, sempre qualcosa a cui pensare in ogni istante. E vedi tutto quello che hai intorno come se fosse un mondo nuovo. Potrei scrivere la risposta a letto, perché mi immagini così, breve, poche parole. Non come quelle lunghe lettere scritte per tutti. I versi che Hattie Dillon mandava a quel tizio che era qualcosa in tribunale e che poi l'ha piantata, copiate dal segretario galante. Quando gli dissi di usare poche parole semplici, che lui se la poteva rigirar come voleva, non agire con precipitazione. Con uguale candore, la più gran felicità sulla terra, risposta affermativa alla proposta di matrimonio di un pretendente. Dio buono, non c'è altro da fare. È tutto facile per loro, ma quando si è donna, una volta diventata vecchia, tanto vale che ti buttino nel bidone della spazzatura.